la WhatsApp che ha fatto. Io sempre uguale, niente, bene, va bene, aspetta l'aria. Sì, vabbè, non è che siano eccessive, pure tre. Già vanno bene. Avanti, Brecco. Sentiti da questa parte il grotte. Al grotte, ben sentito, dall'altra parte c'è Papatano, abbiamo Sandro che stava un pochettino controllando le stazionare, ma già sono buoni nel tre. Ma ciao Sandro, ma come stai uscendo in modulazione, tranquillo? Sì, va benissimo. Ma dai, adesso metto un attimino una scarpetta sotto, così diamo più potenza. Ciao Grotte. No, un attimino, Eccolo. Quando può aprire, sto saturando. Vieni avanti. Dopo 1, 2, 3, controlla se la modulazione satura. Sì, un po' satura, sì. Sattilo, dai. Io va bene lo stesso, però. Non è... Sai che cosa? Mettendo la scarpetta, fa qualche problemino l'amplificazione, quindi va in saturazione perché la batteria è scesa di voltaggio. Perché l'altro giorno andavi meglio. Non so davvero cosa dirti, perché non ho toccato niente, eppure è cambiato qualcosa. L'altro giorno migliorava la radio invece di peggiorare. Non so cosa dire. Hola. Se non è che provo un attimino ad abbassare l'amplificazione, cosa dici? Prova. Però questi microfoni quando li tocchi poi succede un casino. No, lo toccavo allora, ce lo so. È fastidiosa come è saturato attrappando? No, già va bene. Stavi facendo in garage? Quando oggi? Ah. Oggi ci sono passato un secondino perché dovevo guardare una cosa che stavo smontando la cameretta del bambino, quindi ho portato ieri il primo viaggio, oggi il secondo viaggio a casa di mamma, un po' di scappoloni che poi riporterò, ma devo smontare tutto e devo rimettere a posto tutta la cameretta, dai, che poi devo, che arriverà quella nuova, quindi devo rifare tutta la camera, pitturare, c'è un parte di intonaco che entra acqua dal tetto, capito? Acqua dal tetto? Ma è nuovo quel manto, quel catramanto? E tempo fa si hanno rifatto dei ritocchi, hanno rifatto e ci va a mettere a posto, dai, solo che sta aspettando il condominio, ma se aspetta loro campa a cavallo, allora preferisco farmelo io. Perché per i metri quadri che sono, guarda, pure alla fine. Sì, no, il tetto è stato messo a posto, il manto, solo che come entrata acqua dentro. Leggermente qualche pezzo di intonaco conviene ammalorato buttarlo giù e rifarlo nuovo, capito? Tanto è gessato, quindi in una mano di gesso non si vede più niente. Visto che ci sei, non ti conviene dargli una passata di cosa, come si dice, cioè fargli un multistrato, mettergli passargli la pavimentazione in modo tale da renderla agibile. No, su non ci devo fare niente, su è stato ripreso la parte, lì un domani adesso aspetto dopo questo piano caso e se passa che decido cosa fare, dai. Ma dirò giro. Cava. Vabbè, però devi vederlo subito perché credo che avrà una scadenza, No, sono ancora in alto mare, ho chiamato il giovane, però adesso mi chiamerà. Ma scusa un attimo. Dimmi. Nessun altro in ruota? Sì, c'era Sandro che stava accordando facendo prove con l'antenna da protettore. Ma Sandro l'ho sentito, però non c'era nessun altro. No, ho sentito Sandro ieri in ascolto, poco fa c'era Massimiliano, poi c'era Gianni Lo Piorun, ci sentiamo un attimino, io comunque ero in ascolto perché c'è il bambino che mi ha chiamato, volevano un po' di cose lì, quindi stavo un po' col bambino e poi sono tornato. Cosa stai facendo? Guardando la televisione? perché la senti. Sai che stavo pensando di piazzarmi un'altra antenna per non tenerla chiusa, intanto cosa ci fa dentro la baracca? Allora ne piazzo due. E se dovete pensare di due antenne sulla 27. Ma invece la realizzazione di quella cosa non ho capito come la volevi fare, volevi sottocalibrare uno dei due pali e dopodiché farlo entrare dentro l'altro. No, uno spinotto, certo, dammi la misura esterna, misura interna e al torno ti faccio uno spinotto, capito? Un bello spinotto e aspetta un attimo. Coppia. Ecco, quello vabbè. Ti faccio uno spinotto praticamente. Entra da una parte e dall'altra, capito? E poi mi tiri su un bordino della misura per fare l'appoggio, così non gli fai due fori e ci metti due bulloni da una parte all'altra, che non ce n'è nemmeno bisogno, guarda. O due punticini proprio di saldatura, gli metti due punticini di saldatura per non stare a forare, oppure lo lasci così direttamente. Dice di spinotto, pezzo di tubo, sezione o parte di tubo, avventi una parte sovracalibrata e una parte sottocalibrata, in modo tale che da una parte entra e dall'altra esce, quindi un maschio e una femmina, uniti. Due maschi, tu mi hai detto che aveva lo stesso diametro il tubo, entri un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra, e qui ti lascio un pezzo della stessa misura per fare l'appoggio da una parte e dall'altra. Ah, quindi tu lo fai entrare da una parte, gli fai una saldatina al collo e dopodiché gli infili l'altro? Sì, tu entri una parte, poi va battuta, perché la battuta gliela lascio dalla dimensione del palo, lo posso fare anche un po' più grande la dimensione del palo, e poi ci tacchi l'altro vetro perché c'è un altro spinotto. Sì, va bene così, e dopodiché ci faccio un bullone passante, la cosa migliore. E in modo tale che uno lo sa e l'altro gli metto un bullone passante a bloccaggio, ma quanto deve entrare dentro? Certo, basta poco, bastano 15 centimetri, 20 centimetri, 5, dipende dal materiale che troviamo. Perché, guarda, dovrei avere anche uno spezzone di tubo per essere sicuri, proprio di quel palo lì, perché non l'aveva tagliato, mezzo metro mi era rimasto. Quindi dovrei avere mezzo metro di spezzone per fare le prove. E l'ideale è averlo, perché quello glielo faccio il più preciso possibile, capito? Spaccato. Sì, no, va bene così. E poi di modo tale che mi libero un po' di tutte quelle cose lì. Poi le staffe è vero, quelli qua li tolgo, in effetti non servono a niente, lasciateli dall'altra parte, capito? Mi potrebbero servire al limite per una pala eolica, ma non vero. Adesso se vuoi utilizzare quelle che sono già forate e pronte, se no quelle che abbiamo saldato utilizzi quelle. Sono te bastano. Io credo di sì. Sì, anche perché ti ripeto, l'antenna per quanto pesa non è che abbia tutto questo quello, poi se la controtirata non c'è problema. Anche se gliene posso mettere due di tiranti, anzi tre. Perché il quarto non saprei dove metterlo, capito? No, tre tiranti ci vuole, appunto. Una volta che la piazziamo vediamo se metterne tre su e tre giù, oppure battono tre, ma io penso che tre battino al centro, un po' più su dal centro, là. Dopodiché a 213 o a 58? 213 è meglio, anche perché si dà un po' di potenza, qualsiasi qua, 213 mettili. Roger, e dovrei contattare Pompone, perché 213 non se ne trova più, perché invece ce lo dovrebbe avere lui, mi ha detto che ne aveva un po'. Sono a quel pezzo, te lo trovare via, te lo cambi direttamente, quelli mica lo buco lo tieni, se può servire, perché poi magari anche su quel palo puoi metterci, non lo so, puoi fare tante cose, hai capito? Puoi fare tante cose, tanto fai, tanto il palo lo devi montare, montiamo tutto lì sopra se prima, una L, oppure su lì ci metti l'antenna del UHF, HF, quella roba lì. No, abbiamo deciso di mettere la staffa L, no? Metto la staffa L, non c'è problema. Te tanto l'insicola può essere tranquilla, dunque, per dire che un museo di meno cavo, meno peraltro, perché con quello potresti usare lo stesso cavo, no? Pure si può fare così. E che stavo pensando di dover mettere una turbina eolica di nuovo. Allora, metti lì, te ne freghi. Vedi tu, diciamo che una volta che ci hai montata l'antenna e il barum, con una scala, quella lì la monti quando come vuoi, senza ci tirare giù niente, capito? Stavi Roggero, cosa stanno trasmettendo la televisione? No, niente, adesso c'è il report. Dove stanno parlando? Parleranno, credo, sentito coso di Megabille, Costa Smeralda, puttanate, quindi questa gente che ha la barca attraccata da 24 metri e guadagna quanto guadagno io. Tu già lo conosci uno, eh? Dunque, anzi, qualcuno già lo conosce, da 24 metri no, ma qualcuno già lo conosco. E beh, l'hai spento l'altro. Dicendo, beh, cosa bisogna fare? E dammi il tempo, prova il manuale, quello che non si legge, va. Questo manuale? Sì. Manuale come si legge, ho trovato. Ma cappa, nel frattempo, se cerco il foro dove l'avevo visto. Oh! Avanti. Ehi! Hey. Ehi! Sempre accesa oppure in trasmissione dopo 2 minuti di trasmissione. Ciao. Buonasera ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera. Piove, piove. Piove, piove, il gatto non si muove. Massimiliano, piove, piove, il gatto non si muove. Dove? Massimiliano. Però. Massimiliano. Massimiliano. Ti ha detto piano piano il gatto non si muove. Io l'ho detto. Mi sembrava Massimiliano. Cosa scuola poco fa? L'ho detto io. Ah, mi chiamo Massimiliano, ma. Ma che mi sei? E allora? A che pagina è? Però da che pagina è? Sto guardando il forum, non c'ero qualcosa. Sto guardando il forum per vedere. Leggi bene che tu me lo spieghi. Anzi, cioè mettere l'altra funzione. Comunque, buonasera a Grode e a Fabrizio e a Luca. Ciao, Massimiliano, mi sentite? Ben entrato. Massimiliano. Rimango in ascolto che faccio qualche cosa al computer. Sono in ascolto. Si sta aprendo l'altra pagina, un attimo, e ti dico. Ma c'è gente scema che vuole aprire, vuole tagliare dei 3 cavi. Allora, ma è sempre accesa? Sempre accesa, ce l'ho. No, no, allora se ti dico esattamente come si accende solo in trasmissione. Avevi piacere, ma sento. Aspetta, me l'ho trovato un attimo. Ci sei? Sì. Brizio. Dimmi. Sì. Mi senti? Sì, conosco il chiuso, non riuscivo a sentirti. Allora, succede questo, devi spegnere l'apparato e schiacciando il tasto 7 devi riaccenderlo e ti fa entrare in un menu. Il tasto 7 è sul coso, sul microfono. No, no, negativo, negativo, proprio non utilizzare il microfono, utilizza solamente, spegni l'apparato e schiacciando il tasto 7, quindi tutte e due devi schiacciare 7 e l'altro è power, e ti fa entrare nel sottomenu. E col microfono, i numeri sono solo nel microfono. I numeri, non ti resta a capire. Dov'è che spegni il tasto 7? Tasto 7, come intendi per tasto 7? No, 7, come settaggio, se no qua siamo a livelli di Michigan, ho detto 7. Ok. Non andare proprio il 7, non c'entra niente. schiacciare il pulsante che c'è in alto, guarda che in, uno è in alto a destra e uno è in alto a sinistra, è opposto al tasto di accensione, tu lo tieni schiacciato mentre stai accendendo. Poi? Fatto. Affermativo. Vero, adesso ti dovrebbe apparire una serie di nel menu, fallo andare avanti e dovresti avere la ventola messa in on, mentre invece dovresti metterla in off, in modo tale che si accenda solo quando va in trasmissione l'apparato. Ecco, ecco, adesso l'ho messo in off, perché questo mi dà solo un minuto e mi fa... Cos'è B? È B off. C'era quello. Poi lo spengo nuovamente. Prova a spegnerlo, ma perché adesso si è spenta la ventola? No, adesso lo spengo e lo riaccendo per vedere se ha preso questa funzione o no. Qualcosa di importante. Non succede niente. Già, sei sicuro che sia quello innanzitutto il menu per la ventola? No, se tu me lo devi dire, se non me lo dici anzi, perché adesso sto cambiando la stessa. Ah, non ho capito. Cosa c'è scritto del menu della ventola però? Aspetta, ci sto arrivando un attimo. Allora, adesso l'ho trovata. Può essere impostata fra auto e on. Auto e AT, la ventola entra in funzione durante la trasmissione e si accende fino a 2 minuti dopo. On, la ventola è sempre in funzione. Quindi devi andare su far invece che AT, invece che on devi mettere AT. Io AT qua. Hai copiato? Sì, AT, però io quando schiaccio rimane per un bel po' e ancora dice in automatico la ventola entra in funzione durante la trasmissione e si estende sino a 2 minuti dopo. Mentre invece on la ventola sempre in funzione, quindi sai che sei buttito, cioè o te la tieni con la cosa. L'unica cosa lo sai che cos'è? Abbassare un po' la potenza. E sono sempre al minimo. Che così è rumorosa? A me dà fastidio. Ma scusa, hai l'opportunità di mettertela a 5 metri di distanza, dietro a Zilu. Beh. Ho sotto il divano. No, già lo lascio lì, dai, che... Os. No, sto cercando, a fare ancora c'è stato problema anche il PC, no, giù, adesso lo metto via, ma non voglio più vedere questo PC. Che mi provaccia? Con Windows mi dice di comprarlo, ovviamente una versione, adesso ho scaricato anche versione, quindi tanto chiede, mi serve, bah. C'è nessuno, questo canale. Si è attaccato al computer, siete. Luca. È pieno di gente, tutto orecchio di porco. Peloso. Luca. Aspetta, devo fare delle cose, ci sentiamo fra un po'. C'è una cosa che devo fare, cambiare la quale lingua. Anche mouse, mi stai sentendo? Eia. È brutta come ieri la modulazione. Sì, non è bella. Ma non è bella, è brutta, è un passaggio, è un altro step. C'era la piante compressa, insomma, non è bella. Allora ci giro due bitti. Ma stringere forte però sei bitti, eh. Che sicuramente se faccio così, guarda, tac, funziona meglio, vero? 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Forse va meglio così. Scusa, prima andava bene anche con la scarpettina attaccata, adesso non più. Cosa dirti? Io ti dico come ti sento, poi fai tu. Stai agendo un po' sul modulatore e riesco a cambiargli qualcosa. È una questione di accoppiamento tra il lineare e l'apparato. Mi sentono... Non si amano abbastanza, perciò di conseguenza non si accoppiano bene. No, perché a parte la stessa marca, ma questo può essere relativo. Fino a ieri stava andando benissimo, poi di colpo non so perché sta iniziando a creare questi problemi. Può essere un po' di rosso nell'antenna, qualche cosa che si è deteriorato, qualcosa che è cambiato, non so. Mutande, sono quelle uguali a ieri. solo più pesanti. Aspetta un attimino, guarda se faccio così, uno, due, tre. Si è sentito un bel ronzio, poi 1, 2, 3, 1, 2, 3, però non è che si possa capire niente di quello che stai, della qualità della modulazione. Aspetta allora, è che non ho cacciavite antinduttiva per quello che senti un ronzio, aspetta. Così, 1, 2, 3. Ma sembra buona. Buona perché non ho attaccato intelligentemente la scarpetta, aspetta. Guarda così, cambiata, ora, 1, 2, 3. Sì, va a comprimere. Sì, 1, 2, 3. Diciamo che è comprensibile, però si sente che è compressa. Sì, devo abbassare un attimino di più. Da così, 1, 2, 3, così dovrebbe essere ancora più compressa. Effettivamente è molto compressa. Buttaci via tutto, va. Muovere in FM, guarda un po' adesso. Ah, se vuoi guardare posso ascoltare, poi fai un passaggio un po' più complesso e completo, e se dici due parole veloci e poi molli, non riesco a darti un giusto rapporto. Complesso, un po' più complesso, e i fusi come immobile, dato il mortal respiro, tende la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Oh, ecco. Sì, riuscendo sempre compresso. Oh, oh. 1, 2, 3. Prova. Ora. Aspetta, una cosa, ti prendi un bel apparato da 100 watt, no? Possibilmente un Kenwood, perché sappiamo che modulazione Kenwood è buona. Poi ci abbini un bel lineare valvolare con le valvole 3CX25 in modo da erogare intorno ai 3000 watt, 3 kW, e sei a posto, sei un signore. Vabbè, smettila di ridere. Sto pensando. E vabbè, posso anche farlo. Ma. Io conosco uno che ne ha uno da 15.000 watt, 15 kW, ha attaccato un paio di volte, ma tutto il vicinato gli si è passata dalla corrente, ti dico cosa è successo. Lo sento anche io, parla, ascolta, un po' compresso. È un po' compresso, io non vorrei che dipendesse. Ora, 1, 2, 3, prova. È fastidiosa come modulazione. No, se uno gli dà fastidio o cambia canale o spegne l'apparato, però se tu mi chiedi ho una bella modulazione, assolutamente no. Come si è messo in inglese, Anto? Good. No, nulla, niente. Good, no problem. Vabbè, siccome esci, come dice, vabbè, non ho capito da me risposta. Parlo in inglese, mi interessa sapere la pronuncia, perché so come si dice. Dico, castello in inglese. Castle. Bocciato. Bocciato chi io? Vabbè. Vai. Ui. Vai, ti ho chiesto perché. Castle è un'altra cosa che a quest'ora è meglio non dire. Castle. No, bocciato. Guarda, te lo dico con certezza anche perché c'è l'omonimo telefilm ascoltato in lingua originale e tutti i vari attori quando pronunciano la castello in inglese pronunciano castle. Adesso vediamo un attimino, guarda, facciamo una cosa più bella di questo mondo, che è quella di prendere, se tu prendi Google, se tu metti sul traduttore la parola castello, te la legge anche, quindi tu cosa fai? Metti inglese, quindi, la fangura, aspetta che ho sbagliato, inglese. Dopodiché scrivi castello, dice castello. sente perché proprio facciai quello che c'hai, ma su Google se tu metti tassello pronuncia inglese e poi basta guardare sul dizionario come è scritta la pronuncia, sai che il dizionario c'è. Ed è no. Castle. Negativo, perché in inglese devi sapere che una stessa parola, comunque una stessa frase, si può pronunciare in due maniere diverse. Non ultimo quello che il significato di prostituta e il significato di spiaggia, che sono molto simili nella pronuncia, ma non dicono la stessa cosa. Comunque adesso te lo faccio risentire dal traduttore di Google. Un attimino che cerco le casse. Io sento castle, non sento castle, sento castle. Beh, e vabbè. Vabbè. Comunque se fai su Google, scrivi castle, spazio, pronuncia, ti porta il primo link, fai. Non ti faccio risentire, allora. Hai capito questa frase qua, guarda? Sì. No, è troppo bassa e non si sente, ascolta. Vediamo cosa dice. Castle. Sì, castle. Castle. Vediamo quest'altro. Castle. Sempre lo stesso. Castle. Questa è un po' più pronunciata. Castle. Questa è castle. Castle. E poi c'è la trascrizione fonetica, infatti la T non c'è. Quello che avevo fatto sentire era questa frase, si prova a scriverla, U, Y, O, U, D, R, O, K, E, ci siamo? Ridicchi. Allora, digita YOUBROKEDHALLS. Ti ripeto, YOUBROKE. Questa è una frase. THEBALLS. Vabbè, ok. Non break my balls. Allora, conosci l'inglese? Vabbè, guarda. Io ho la fortuna di avere mia moglie che è un interprete di lingue straniere. E l'inglese lo fischia anche, non c'è un problema. Quando ho problemi di inglese mi rivolgo a lei, perciò c'ho la professoressa in casa. No, non ho capito, ma Farugulo mi sei bigliendi. No, perché volevo sentire così da una persona esterna se sapeva come pronunciava la parola castle. Perché poi questo castello? Per cosa ti serve? No, niente, vabbè, così. Era tanto per parlare. Assolutamente non mi serve a niente. Ormai l'ho venduto al castello perché col vice che ce l'ha a pagare non ti dico quanto mi è venuto il conto. Ragione, però poi sembra che non lo mettano sulla prima casa, quindi. Io spero. Tizio. Cosa è Dio di Zene? Erano solamente un amperaggio. No. I dio di Zener hanno amperaggi e voltaggi diversi, dipende da cosa ti serve. Puoi avere un dio Zener da 5,1 volt, un ampero se no da 10, da 20, da 0,5, dipende. Ti spiego cosa mi è successo. È presente il dio Zener che c'è all'entrata dell'alimentazione per evitare l'inversione di polarità? Non è un diodo Zener quello. Sì, è un diodo? Non è un diodo Zener. Bensì è un diodo? un dialo veloce, di solito si usano scrutti, però non è un dialo zener. Il dialo zener ha un comportamento diverso dal dialo classico. Il dialo che viene messo in protezione, che può essere un banale 1N4007, 4001 o se no 4148, e serve solo esclusivamente per far circolare corrente, in caso si venga invertita la polarità deve essere più veloce che a diventare il circuito, in modo che in ogni caso in serie al diodo ci deve essere un fusibile rapido, non fa altro che far circolare la tensione che solitamente è intorno ai 0,7 sì, perché è la tensione media di caduta del diodo, e fa bruciare il fusibile non creando problemi al circuito, capito? Però non è un diodo zener. Il diodo zener ha un'altra caratteristica, che è superata a quella soglia del diodo stesso di tensione, entra in conduzione a valanga. Ma poi qua è successo questo, che non mi si accendeva più l'apparato, che non è questo, poi non era un apparato, era un portatile, un baracchino. A seguito di quel diodo non c'è un ulteriore fusibile. Fatto sta che tagliato quel diodo lì, la baracchino ha ripreso a funzionare. Perché il diodo si è andato in costo, che solitamente se ne va in costo il diodo quando avviene questo. Infatti andrebbe sostituito più che tagliato, perché se lo tagli poi succede che fai di nuovo in versione di polarità e la prossima volta te lo sei giocato. Infatti ti dico, secondo te che tipo di diodo è? Perché si è bruciato il diodo, è andato in corso, si è proprio spaccato, ha fatto punta di bruciato e non riesco a leggere, non avendo neanche lo schema del baracchino, di questo portatilino, che poi è un Intec 52S, un portatile, non riesco a leggere il valore del diodo. Era in vetro quasi rosso, se riesce a capirlo, o era in classico plastica nero? Nero con polarità. Nero con polarità 1N4007, va bene quello. 1N4007, ok. Comprerò domani, ti sostituisco. Te lo ripeto, 1N come Napoli 4007 o 4004, 4001 è lo stesso, però 4007 li trovi perché sono commerciali. 1N4007. I gambi abbastanza grossi, eh? Come? Sì, i reofori sono grossi. Poi sì, io mi richiamo le gambe, e vabbè. Cosa c'è? Per la consulenza, fa buon rendere. E qual è il problema? No, non ti preoccupare, per così poco. Fa sempre piacere dare una mano, per carità. No, non c'è nessun problema. Va bene, quindi va bene. Dove ancora? Invece sai cosa mi sta succedendo adesso, Vittorio, ci sei, ti dico. Quelle scarpettine della ZG, che sono i 153, i P153, che in breve come lo accendi ti chiude completamente la ricezione, cioè esce tranquillamente col numero di watt sui, però come vai a schiacciare il pulsante di accensione della scarpetta ti dimezza, se non anche quasi annulla, la ricezione stessa sull'apparato. Devi cambiare il BC507 che c'è all'interno, il transistor che si è andato in corto, e praticamente tu quando lo accendi ti commuta il relè di commutazione tra la ricezione e la trasmissione e ti toglie come se ti staccassi l'antenna. In realtà è successo quello lì, o se non è quello, qualche resistenza non petto, ma c'è un transistor di commutazione che pilota il relè, controlla che solitamente parallelo alla bobina del relè c'è ugualmente un diodo, se c'è cambialo anche quello lì, però sicuramente quello che è successo. Se non dice, se ci fai l'orecchio, all'interno c'è un relè, quando tu accendi, non te ne rendi conto perché quando accendi fai clic dell'interruttore, però se presti attenzione sentirai il relè che si eccita e non si deve eccitare, quello si eccita solamente quando va in costante. Aspetta, allora i B153 della ZG non hanno il relè, al contrario del 747 della, se non mi ricordo che cosa era l'altro, come ad esempio ce l'ho anche su questo Intex, come tu schiacci fa tic e si sente il relè, quelli non hanno il relè, non sono sotto relè. Se non hanno, perché devono fare la connotazione tra ricezione e trasmissione. Solitamente lo mettono, guarda che può essere piccolino, è una scatoletta veramente piccolina, minuscola, che non ti sembra un relè magari. Che è quella nel caso? Per forza di cosa ci deve essere un relè di connotazione, anche perché fare una connotazione in RF a componenti, insomma, costerebbe di Dio il lineare, non mi sembra, perché la ZG va sempre a risparmio sotto queste cose. Ma è pieno di Dio di... al germano. E allora è roba buona. Sì, siamo qui, sì. No, la connotazione la fa. Per me ci dovrebbe essere un relè. Transistor oltre al finale, ne vedi transistor, quelli neri con tre filini in piedi. Non sono di fronte, sì, però mi ricordo che c'era qualcosa. E i finali ce ne sono quattro. Aspetta, guarda, giusto per non dire cazzate a vuoto. Allora, ridimmi la sigla del lineare. ZG V153. Ho capito. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' se riesco a trovare questo di schema, te lo dico. L'ho trovato io, ma lo sto aprendo adesso. L'ho trovato. Forse lo schema, aspetta che è un blocco un attimino. Allora tutti sto cercando di fare l'applicazione di che ha letteralmente preso fuoco bruciando la maggior parte dei componenti, ma senza lo schema elettrico vedi in quella mano. Aspetta un attimo. Tipo questi solo sono scambiati fra di loro. Che? Allora sì. Non c'è relè su questo, c'è sempre da imparare. Allora, ci dovrebbe essere di commutazione, se lo fa sapere di Dio. Se vedremo un pezzo di schema ti avrei detto quali sono. Comunque c'è da fare un controllo sui diodi, sui semiconduttori. Di questi rossi che sembrano tutti al germano. No, quelli sono rossi e grossi, no, non penso che siano quelli. Stai dicendo sui diodi neri? Aspetta, perché sai, non è che posso sapere lo schema di tutti e di tutti. Se lo trovo te lo dico, aspetta un attimo, dammi 5 secondi. Conta fino a 200. 99, 100. Allora sì, devi controllare quei diodi che sono rossi e neri. Quelli che devi controllare col tester. Chi ce ne sono? Allora, ce n'è uno in linea all'estremo, che quello è vabbè per il diodo laser, non te ne frega niente. Ce ne sono 2, 4, 6 che devi controllare. Puoi leggermi anche il valore? Cosa devo leggere? Valore del diodo. Il valore? Cosa è il valore? Ti devi leggere, sente che da una parte conduce dall'altra, non e basta. Devo vedere quello lì. Sicuramente o sono interrotti o sono in corto. No capo, perché se avevi il valore li compravo direttamente, li cambiavo tutti quanti. Così mi sembrano gli 1N4148, ma ci vediamo un po'. Chi ha fatto delle foto? Aspetta, se hanno fatto una foto alta definizione riesco a vedere qua. Questa qua sembra bella. Allora, vediamo. Aspetta. Allora. vediamo un po', corriamo qua e vediamo qua. Sì, 41-48. Dimmi la sigla esatta, 41-48, però cosa c'è prima? Sempre 1N41-48. Controllati lo scusa, magari è uno solo, però uno non è un 41-48, ma sicuramente è uno Zener, perché c'ha, invece di avere la fascetta nera c'è la fascetta bianca. Ma ti ringrazio, dai, cosa vengono a contare di subito? Ma poi i centesimi, come li costi, no? Non fanno niente. Aspetta, vediamo un po', cioè, ho trovato delle foto con tutto quanto smontato. Allora, mi sai dire rispetto al pulsantino rosso, dove è l'ingresso dell'antenna? Negativo, perché non ce l'ho di fronte. Ascolta, ma se ti faccio avere un apparato, riesci a rimettermela a posto in ricezione, no, in trasmissione? Non te lo so dire. Potrei riuscirci come non potrei riuscirci. Texas, famoso, che ti dicevo. Ah, mamma mia. Guarda, io per principio, ma non per altro, per carità, però solitamente se ci mettono a mano altri preferisco, perché poi divento scemo, capito? Magari allo step successivo non si arriva perché non si hanno, magari non si ha la strumentazione adatta, quindi è per quello, capito? Cioè, il problema è che per la trasmissione, perché per la ricezione c'è tutto, ma per la trasmissione purtroppo manca uno strumento fondamentale, ed è il manettatore di spettro. So che il caro Fabrizio potrebbe averne uno. Capito? Io chiedo a Babbo Natale se me lo regala un manettatore di spettro. Anche di grosse cose, se me lo regala magari volentieri vi rifaccio questi lavori. Hai ragione, dai, no, comunque mi c'è stato più che utilissimo. Domani devo riprendere un attimino per cambiare queste cose su questo lineare. Comunque ho trovato lo schema, forse di girare ho trovato lo schema del per fare la disolviatore, no, però mi torno in conto, no, vabbè, poi qui c'è il come per le bande laterali e va bene, dovrebbe essere questo qua, sì, perché non ha, allora c'è il D1 e D2 che sono in antiparallelo, che entrano prima del T1, che ti dico subito dove sono, D1 e D2, D1 e D2, sono in realtà, eccoli qua, praticamente, perché l'altro è DZ1, è uno Zener, sono quelli due a fianco allo Zener, quelli li devi controllare, e poi i 6 e i 7 che vanno verso massa, perché riportano il segnale verso massa, che sono quelli estremi a fianco alla bobina L1, che sono in corrispondenza del bocchettone di uscita. Sì, perché c'è il deviatore che ha più fa tanta roba. Sì, è quello lì, infatti tu quando metti lo accendi, commuta la ricezione dell'antenna, la fa passare per D1 e D2, se quelli lì sono in corto ti porta via il segnale, passa per il C4, io controllerò anche il C4, e poi di 6 di 7 ugualmente se qualcuno di quelli in corso ti porta via il segnale, e fino a controllare l'L1 che non l'hai cotta la bobina L1 che è in serie, insomma c'è a controllare un po' di cose. Comunque se vuoi ti passo il link dello schema. Ma se mi fai questa cortesia, guarda che no, la bobina l'ho già rifatta ed esce benissimo, uscire esce bene, in ricezione che ha problemi. quando metto trasmissione la bobina non viene interessata, io parlo della L1, L1 funziona solamente in ricezione, tu quando vai in trasmissione passa per T1 il T2, la L1 non viene impegnata. Siccome quello che ti stavo dicendo, ho bruciato anche una bobina che non so quale sia, è in alto sulla destra, lo vedi? Quella lì l'ho dovuta rifare. Ce l'ho capovolto, a me risulta in basso a sinistra, poi c'è quella della L1. La L1 serve solo esclusivamente per la ricezione. Non è che magari l'L è fatta male, no? Se ti sei bruciata l'L1, allora hai bruciato il D6, il D7, io controllerei il C4, che è un condensatore, e il D1, D2. Se hai bruciato l'L1, per forza di cosa, uno di questi componenti te li sei fottuto, per forza, perché è passata troppa corrente. Ma devo dire, ha scaldato troppo per troppe stazionarie. È passata troppa corrente. Poi questo qua è lo schema, dice del 737, ma è uguale sicuramente a quello che c'hai tu, perché li fanno con lo stesso stampo, poi cambiano nome. Questo è il 2 finale, dove c'è 2 e 4 finali, però il discorso non cambia. Fermo 4 finali, anche se credo che il 737 e il 747 mettono i finali MOSFET. Ma quello che hai tu ugualmente è un MOSFET, perché l'ho letto poco fa. 153 no, B153 non credo. So che sì, perché l'ho letto proprio nel sito della ZG, dice che sono finali MOSFET, così c'era scritto. Allora, è il 150 che è normale, invece il 153 come il B47 come il B33 monta dei finali MOSFET, come dice qua, eh. La serie MOSFET Power utilizza MOSFET di potenza che consentono di ottenere eccellenti risultati in bassa distorsione del segnale, alta fidelità, nel tempo migliore il rendimento, ed è B153. Frequenza 2630, alimentazione 1115, amperaggio 810, potenza d'ingresso 0,55 in AM e in banda laterale 1,10. E potenza di uscita 100 in AM e 200 in SSB. Ero da 50 non inverme. Com'è? Ero da 50 watt con i vermi. Ma cosa c'avevi? Il 2001, il DV? Ah, c'ho MK4. Ah, non il DV 2001. Ma sì, il DV 2001 MK4, così è denominato. Ah, vabbè, non ho capito. Interessato? No, anche perché fa 2630, poi è senza fil, senza niente. No, poi guarda, mi sto contattando uno con di seconda mano, ho trovato un kilowatt, ne vuole 400 euro. F sono le frequenze, aspetta, sì, HF. No, in effetti è una caponata per la 27, cioè il DV 2001, cioè non lo puoi usare, no? Fai casino e basta. Sì, è un casino, eh. Lì, guarda, per andare bene si possono fare delle modifiche, perché si possono modificare questi lineari. Bisogna costruire il filtro d'uscita in modo da non farlo uscire dove non deve uscire, cambiargli delle capacità sulla, come si chiama, sull'anodo delle valvole, in modo da fargli abbassare la frequenza e fargli fare dei 40 metri, forse riesce a fare anche gli 80 metri, e fargli fare diciamo lo spettro radiomatoriale, però bisogna montargli il filtro d'uscita, perché se no quando vai in trasmissione trasmette ovunque.